capitolo è chiuso questo paraculo Falcone. Meno male. Stavi rompendo le palle, ragazzi. Paraculo. Meno male che non si fiume questo finocchio. Dimmi. Ho capito. Che avanti. Casa. Che telefono tu che piombo di te fai a bagarsi non a tua attacca. Brutto coglione, frosso drogato. Falcone, paraculo, Falcone deve morire. Tanto Falcone muore. Dove sono? Seppi adesso. Magari che quello di su gli faccia scendere un colpo. Meno male, forse è già crepato, e meno male che è crepato. Ma fate schifo tutti quanti, che schifo! Fate schifo tutti quanti! No, fa cosa solo fa schifo, e fa la culo, finocchio, che forse è federasta. Sì, crepa, e tu e qua bagazzare tua moglie. Adesso è meglio che c'è con tua moglie, quindi crepi. Hai capito che sono rientrato? E tu devi crepare. Una cosa da fare è che non devi parlare con Falcone, perché Falcone è un finocchio, è un pederasta, ecco. E poi per il resto va tutto quanto bene. Occhio faccio. Arriva. Chiuso, ha fatto quel retino. Ah, adesso è l'amico. Dimmi. Non guardi l'amico. Attento Giuseppe Bezzato, che passa su 26. Avanti l'amico nuovo, va. E dove ti culo tu? Vabbè. Sapra non ci paga, io passo un po'. Come animale? Avanti su 25 l'amico, no? Avanti su 25. Non è che ha chiuso Falcone. Che cosa dici tu? Sta graziano, non a te, non dà retta a quel coglione. Ma vai, sei zitto, che tu ti sei vestito con auto. Andiamo per il culo, tanto vedi. Io lunedì vengo con quella persona che sei tu. Ecco. Da Michele ti ho detto che stanotte si diventa per il genio. Ecco. Faccio morire, crepa! Paraculo questo qui! Vedi che auto non ti ha lasciato da solo, perché adesso tirato la tua in culo! Che devi rimanere da solo, perché devi morire! Animale, noi ci siamo tutti! Sei tu che devi crepare!